Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con il nuovo anno sono arrivati anche nuovi divieti al transito delle merci lungo l'asse del Brennero. Il Tirolo, infatti, ha deciso di vietare la circolazione dei mezzi pesanti che trasportano ceramiche, legnami, pietre, marmi e altri tipi di prodotti. Il provvedimento si aggiunge ad altre limitazioni imposte sulla stessa tratta dall'Austria per ragioni ambientali, che vanno a colpire però l'import e l'export italiano. Si calcola infatti che per il Brennero transitino circa 2,4 milioni di tir all'anno e che per ogni ora di ritardo nell'attraversamento del valico l'economia italiana paghi più di 370 milioni di euro all'anno. L'Italia porta avanti da tempo un'azione politica a livello europeo per risolvere la questione, ma nel frattempo l'attraversamento dell'arco alpino in questa zona continua a essere difficile. Quali sono le prospettive? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, torniamo ad occuparci di Brennero, torniamo ad occuparci dei limiti imposti dall'Austria a partire dallo scorso 1 gennaio, limiti che stanno causando non poche difficoltà non solo e non tanto al mondo dell'autotrasporto ma al mondo produttivo italiano. Noi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Ogge, vicepresidente di Confcommercio, presidente di Conftrasporto. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, forse la notizia della settimana è che finalmente un problema così pesante per il paese, per l'economia del paese, come i limiti ai transiti delle merci imposti in questi ultimi anni e in particolare dallo scorso 1 gennaio dall'Austria, finalmente, dicevo, questo problema sta cominciando a trovare la sua giusta visibilità. Beh, per la verità è un po' di tempo che noi come Conftrasporto lanciamo questo allarme che si è tradotto finora in prese di posizione, documenti sottoscritti, ma che non ha fermato in alcun modo l'azione dell'Austria, che sta andando avanti come un treno, è il caso di dire, perché l'obiettivo sarebbe quello di spostare le merci dalla strada al ferro, e noi siamo d'accordo, se non che l'attuale linea non è sufficiente a sopportare il carico di 2,4 milioni di mezzi che passano ogni anno, mezzi pesanti ovviamente, certo, attraverso l'arco alpino e attraverso per il 70% del Brennero. Ecco, io veramente chiedo a questo punto che ci sia un intervento forte a livello comunitario, perché questa è una questione che non può essere risolta solo dal governo italiano, ma il governo italiano deve assumere una posizione decisa a livello comunitario, perché qui si va contro a un principio della comunità europea, la libera circolazione, certo, delle persone e delle merci, soprattutto per i paesi periferici. E allora l'Italia deve dire, beh, fin tanto che la comunità, la Commissione non se ne occupa, io voterò contro qualsiasi provvedimento, in quanto faccio scattare la minoranza di blocco, perché questo provvedimento danneggia non l'autotrasporto, ma danneggia l'economia nazionale. Certo, e questo è un aspetto particolarmente delicato. Tra l'altro il governo italiano si è mosso in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. C'è stato tra l'altro proprio a ridosso delle festività natalizie anche un incontro con il nuovo commissario europeo ai trasporti, tra il nuovo commissario europeo e il ministro italiano. C'è stata una presa di posizione dura, ma forse, come sostiene lei, c'è bisogno di un intervento di tipo comunitario e comune, perché questo è un problema che non riguarda solo l'Italia, lo vogliamo ricordare? No, sono sicuramente d'accordo su questa definizione, anche se mi permetto di ricordare che i paesi che stanno a nord delle Alpi forse gioiscono di questo ostacolo che viene introdotto all'economia italiana, perché loro i collegamenti al di sopra delle Alpi li possono realizzare. Il problema riguarda invece quelli che sono i rapporti tra Italia, quindi l'interscambio tra Italia e l'Europa. Ricordo che secondo uno studio che Isport per la Concommercio aveva realizzato, i danni per l'economia nazionale sono 200 miliardi di euro per ogni ora di ritardo che la merce impiega per arrivare a destino. Ora è vero che la ministra ha effettuato questo intervento attraverso questo incontro, ma lo aveva fatto anche il ministro Toninelli, ma lo aveva fatto anche il ministro Del Rio, firmando addirittura quel documento con 8 paesi. Il problema è che gli austriaci se ne fregano, vanno avanti imperterriti e fra un po' introdurranno anche la diversificazione nel prezzo del gasolio. Cioè, di che cosa si tratta? Gli austriaci pagano un prezzo diverso, ma questa è una concorrenza reale. Siamo ritornati al punto in cui noi riuscimmo a far saltare a livello comunitario, sto parlando del 2004, il sistema degli ecopunti, che era un sistema che frenava l'esportazione italiana. Ora, l'Italia è la piattaforma avanzata nel Mediterraneo, intercetta le merci. Certo, dovrebbe avere poi una rete infrastrutturale che riguarda i porti, le strade, le ferrovie, più adeguata. Se mi mettono ulteriori ostacoli, è ovvio che l'economia italiana, l'intera economia italiana, quindi anche coloro che rappresentano il sistema produttivo italiano, dovrebbero prendere una posizione dura. E io faccio un appello che da Confindustria, Confcommercio, al mondo dell'artigianato, della cooperazione, si firmi un documento, si prenda una posizione chiedendo al governo italiano un'azione decisa a livello comunitario. È una cosa da Presidenza del Consiglio. Ecco, noi dicevamo, spesso si sottovalutano questi problemi e i risvolti di questi problemi sull'economia, ma sono risvolti che poi però toccano addirittura il consumatore finale, così come questo problema del Brennero arriverà poi alla fine a toccare il consumatore finale, quindi tutti i nostri radioascoltatori. No, questo non c'è dubbio alcuno, perché evidentemente innanzitutto avremo una involuzione per quanto riguarda il trend dell'import-export, perché chiaramente il tutto sarà affidato alle economie che stanno al di sopra delle Alpi, che possono tranquillamente collegarsi tra di loro, e la povera Italia, che ha l'arco alpino, che è una delle cose più belle del mondo, che sarà costretta o a subire i prezzi che verranno imposti attraverso questo meccanismo, che vede l'Austria porsi come la Svizzera. La Svizzera ha fatto la stessa operazione con i treni, ma la Svizzera è fuori dall'Unione Europea. L'Austria sta tentando di fare la medesima operazione con i mezzi pesanti, sostenendo fra l'altro i problemi di inquinamento, quando sappiamo benissimo che la verità è un'altra. Basta andare in qualche valle dove si pratica lo sci e si vede tranquillamente come lì il clima non sia proprio così un clima sano, ma chiaramente le emissioni delle macchine che percorrono quelle strade si sentono tranquillamente, sembra di essere in centro a Milano qualche anno fa. È chiaro che poi anche dal punto di vista dei prezzi al consumo ci sarà una ripercussione, e i cittadini italiani pagheranno le conseguenze del fatto che non si è voluto assumere una decisione determinata nei confronti della Commissione Europea. Non c'è tempo da perdere. Certo. Bene, e noi con questa esortazione chiudiamo anche questa puntata di Container. Ovviamente continueremo a seguire nelle prossime settimane l'evoluzione di questa situazione, anche le varie posizioni che il governo italiano vorrà prendere per quanto riguarda questa vicenda. Termina qui invece questa puntata di oggi. Ringraziamo e salutiamo il nostro ospite Paolo Uggè, vicepresidente di Confcommercio, presidente di Conftrasporto. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.